Se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 mattino" di Alessandro Milan. Ma come si fa a ascoltare una persona così di prima mattina? Ma chiuditi a casa e statene a casa! Baby! Un passo di lato, ma capisco che io sono il capo. E allora io, se devo essere il responsabile e il capo politico, farò il capo politico. Per forza farò il capo politico e prenderò le mie decisioni. Bisogna che la gente, il movimento, sappia che adesso c'è, ci sono. Ragazzi, ma voi sembra che state parlando di una telenovela tipo Beautiful. Non è cambiato niente, Beppe Grillo è sul campo, ci darà una mano ancora di più e sono contento. Davide è quello che gestisce i nostri sistemi operativi. Noi siamo quelli che stanno in Parlamento e si occupano dei problemi dei cittadini ogni giorno. Mi dispiace, ma non c'è il colpo di scena, secondo me. Davide contro Golia al referendum, è Davide contro Golia in mano la RAI. Salvo rare eccezioni, in mano gran parte dei giornali. Noi abbiamo questo, le piazze, la controinformazione, anche le dirette con lei, e la ringrazio, e speriamo di farcela, perché è in gioco la sovranità popolare. Scampoli della Kermesse 5 Stelle a Palermo, dove colpo di scena, ah no, non si può dire, non è un colpo di scena per Luigino Di Maio, non è un colpo di scena, è tutto normale. Grillo che riappare e dice: il capo sono io, il capo politico sono io, che se tanto mi dà tanto vuol dire che per Palazzo Chigi si candiderà lui quando e se mai si andrà a votare nel 2042. Allora, beh, si parla di questo, insomma, è un Movimento 5 Stelle, leggevo sul Fatto Quotidiano poco fa, più ragionato, tornano i temi e meno vaffa, non è più il momento dei vaffa, non per tutti. Non ti devi permettere, stiamo lavorando. Le mani non si alzano. I giornalisti, alcuni giornalisti accolti così, venduti, bugiardi, spintoni. Voglio subito convocare Silvietta Brasca. Ecco, l'avessero mandata a Palermo, avesse alzato uno mezzo mignolo su Silvia Brasca, partivo io col primo aereo da Palermo a dare testate a destra manca. Finivo ovviamente conciato come però. Ma grazie, la mia bodyguard. Eccola lì, che bodyguard, eh. Proprio di quelle che ti metti davanti e nessuno passa. Che weekend a Palermo, eh? Che fine settimana. Che era bello? C'era il sole? Politici. C'era il sole? Come? Sì, c'era il sole? Eh? Sei stata a Palermo, c'era il sole? No, figurati, no. Tra sabato e domenica, tra Juventini e Grillini, stavo meglio a Milano. Tra Juventini e Grillini, brava Silvietta, mi piace così contro la Juve, mi piace. Ma Grillini avevano quell'atteggiamento, poi è arrivato anche Assange e quindi è arrivato Assange. No, il collegamento, abbiamo, cioè, 10 non è arrivato, morti, esatto. Ognuno di noi è responsabile di 10 morti, come ha detto. Io ne ho 10 sul groppone, tu 10? Sì, facciamo 20? Sì, 20 morti, io ho 10 morti sul groppone, ma non lo sapevo. Ah, questo è Julian Assange dall'ambasciata di non so più Ecuador. Guatemala. Del Guatemala, no, dell'Ecuador. Ecuador. vederlo quando Ecuador, Ecuador. Ma non è dell'Ecuador? No. Ecuador. Ah, ecco, appunto, pensavo avesse cambiato ambasciata, un'ambasciata all'altra, fa il giro delle ambasciate. E bravo Assange, 10 morti sul gruppone io, 10 Silvia Brasca, mentre il nostro Maurizio Bianconi, parlamentare, lui, se tanto mina tanto la scala giusta da applicare, lui almeno 500 ne ha sul gruppone, se io ne ho 10, scusa, un parlamentare. Non so di che morti si tratta e non so di che parlate. No, che Assange dice che la stampa provoca drammi, sciagure e anche morti. E questa cifra non la sapevo, ma ringrazio Silvia Brasca. Cioè. Ogni giornalista ne ha 10 sul gruppone, diciamo. Quindi io dico ogni parlamentare almeno 500, se tanto mi dà tanto. Non c'entra niente con la stampa, ma se tanto mi dà tanto non ha torto. Appunto, almeno è d'accordo. Sì, come si sta ad avere 500 morti sul gruppone, Bianconi? Male, si starebbe male se ce l'avessi. Se l'avessi anche uno solo, sarei malissimo. Se ci avessi un'anima, in senso, se ce l'avessi un'anima, un senso di colpa. Questo fa parte del settore coglionerie, perché quando c'è 5 stelle c'è anche un settore speciale, coglionerie, e di sotto c'è tutta questa roba qui e purtroppo sono così, non c'è niente da fare. Vabbè, comunque questo l'ha detto Assange, che non è ancora iscritto al 5 Stelle. Ma è uguale, Stelle Internazionale, l'ora del coglione li mette tutti insieme, capito? C'è l'ora del dilettante e poi c'è l'ora del coglione. Vabbè. E c'è tutta questa rete di matti che girano per il mondo e che si riuniscono anche a 5 Stelle. È il grande difetto, il talone d'Achille dei 5 Stelle è questo. Va bene. Caro Milan, il tuo livore anti-juventino ti rende un personaggio tristissimo. Che pena di uomo, dice un ascoltatore, mi scrive così un messaggio. Va bene, è il momento di aprire il Parlamento. Ti ringrazio Silvia Brasca perché mi hai dato, subito il motivo per convocare tutti gli juventini che mi vogliono molto molto bene. Io devo dire una cosa invece, i giornali aprono su varie cose, adesso ne parliamo, discutiamo. Devo fare un applauso al Giorno, che è l'unico giornale che apre su una vicenda che proviene dalla Giordania, una vicenda molto triste ma che ci dovrebbe fare riflettere. Bravo Giorno che apri sulla vicenda dell'uccisione di uno scrittore laico, era cattolico ma insomma si professava ateo, Nahed Attar, 56 anni. E che grave colpa avrà commesso questo scrittore? Ha postato qualche mese fa su Facebook una vignetta considerata blasfema per l'Islam, ritrae Maometto, e Maometto si sa non si deve ritrarre, eccetera. Non l'ha fatta lui la vignetta, l'ha semplicemente messa su Facebook. È stato arrestato prima dal re di Giordania, ma come? Ma insomma, dove c'è anche Rania di Giordania, la donna più bella inequivocabilmente del mondo, E cara Silvia, ogni tanto intervistata, Rania di Giordania avrà detto qualcosa, una mezza parola su questa vicenda molto triste? No, va bene. No. Nahed Attar è stato ucciso, freddato a colpi di pistola da un imam perché ha fatto giustizia, secondo lui, no? E solo il Giorno ha preso questa ennesima follia con cui dobbiamo fare i conti. Va bene. Torno alle cose nostre, però volevo e ci tenevo a dire questa cosa. Allora, caro Bianconi, ha visto che in Svizzera hanno deciso che gli italiani rompono un po' le palle, per dirla in svizzero. E hanno votato, anche se non avrà grandi effetti, che prima noi dei lavoratori italiani. Dovremmo fare anche noi così? Oppure una in via di massima. Una nazione che tutela i propri lavoratori fa una cosa giusta, sì. Poi ci sono casi e casi, insomma. Ovviamente però ha votato in Canton Ticino, non in tutta la Svizzera. Sì, no, l'ho letto, però voglio dire, evidentemente se ci fossero delle esigenze, se avessi il 20% disoccupati svizzeri e avessi gli italiani che prendono i posti, insomma aveva ragione, ma lì non c'è neanche disoccupazione. Ma infatti ho letto che la disoccupazione è al 3,8%. Sì, quindi è proprio una questione un po' di principio molto censurabile. Però se quello è lo spirito svizzero, e più che lo spirito svizzero, io penso che sia questa invasione che viene da sud, che ha diciamo così acceso questo cattivo sentimento in molta parte d'Europa, sì. Cioè la paura verso questa invasione che ha mosso vastissimi settori dell'opinione pubblica europea in questa direzione. Questa la paura, la paura c'è, guardate anche oggi Repubblica, proprio il titolo, paura degli immigrati, c'è il sondaggio di Ilvo Diamanti ogni lunedì, l'83% delle persone intervistate chiede più controlli nell'area Schengen, alcuni vorrebbero le frontiere. Vedi Milan, io sono di centrodestra, sì, e vengo dalla destra, dovrei essere uno di quelli che c'ha il coltello fra i denti. Non ce l'ho io, quello che non capisce la gente e che non capiscono i nostri governanti è che questo è un fenomeno irrefrenabile, è un fenomeno che va soltanto gestito. Quello che io contesto è l'assenza di gestione intelligente di un fenomeno che non si ottiene con i respingimenti, tanto li mandi via da una parte e ti arrivano da un'altra. Ma infatti, non c'è questo, niente da fare. Su questo, uomo di destra Bianconi, uomo di buonsenso, devo dire. Perché il buonsenso dice che va gestito con grande severità, però, capito? Non è che ci si può dire, oddio, siamo solidali, pigliamoli tutti, non guardiamo a cavaldonato, non si guarda il buco. No, andrebbe no. Andrebbe gestito, per esempio. Effetti, è chiaro, a proposito di gestioni, cara Silvia, leggo sul Corriere della Sera, sono finiti i soldi per l'accoglienza. Mancano e vanno trovati subito, signore e signori, 600 milioni di euro. Sono finiti, cara Silvia. Tu hai qualcosa da mettere a disposizione? Ogni tanto qualcosa metto, dai. Sì, con le tasse. Qua Bianconi ci dovrebbe aiutare a capire se l'Europa ci può aiutare non toccargli l'Europa, no. Hai toccato l'Europa, sì. No, Bianconi. Io ho toccato l'Europa, io l'Europa questa gli darei fuoco. Quindi appunto ho detto non toccare l'Europa. Altro che toccare l'Europa. Cioè, ecco, Silvia, hai capito cos'è? No? Gli darebbe fuoco lui all'Europa. Lo conosco, l'ho già sentito Bianconi. Gli darei fuoco io a questa Europa. Perché ma cosa vuol dire? Cioè, dove dove si va col lanciafiamme? Che tra l'altro è molto renziana come immagine. Dove si va col lanciafiamme? Ho detto gli dare fuoco per farmi capire alle 6:30 di mattina. Sì, sì, cioè, un'Europa che vive in funzione tedesca, che difende tutti gli egoismi degli stati più forti e che non riesce a fare il sistema. Che si mette in mano ai burocrati, che fa comandare i banchieri, che se ne frega della gente, non mi pare che sia una grande Europa, quella che hanno sognato. Al di là dell'Europa, vedi qua Silvia, emergenza migranti, anche il Messaggero, i soldi sono finiti, pagina 4, i centri d'accoglienza a rischio chiusura, che vuol dire i centri d'accoglienza a rischio chiusura? Anche questa è una cavolata dei giornalisti e dello Stato, perché i soldi non è che sono finiti. Sono finiti i soldi del fondo per gli emigranti. Vanno non trovati. È che sono finiti i soldi. I soldi non si creano, andranno alimentati, no? Andranno presi Se Renzi, per esempio, rinuncia al suo aereo, già hanno un paio di milioni in più, 3 milioni in più, quanto ma il problema anche qui, vede, se lei mette un sindaco di qualsiasi paese o città nelle condizioni di non poter contentare i suoi cittadini, ma di avere un fondo per contentare i migranti, il casino lei lo fa. Se invece dà 100 lire per i migranti e 100 lire per i cittadini, il sindaco dà i soldi ai suoi che non si lamentano e dà i soldi a questi. Sì. Silvia, però aspetta un attimo, voglio capire da cronista che cosa racconti, se anche voi al TG della 7 raccontate ovviamente come facciamo noi i comuni che sono subissati. Il capitolo quotidiano dei migranti c'è e appunto noi due che siamo a Milano possiamo probabilmente andare anche orgogliosi di quello che fa la città, ce la facciamo e lo sforzo è grande, tanto volontariato che non può essere supplente di alcune mancanze, abbiamo un assessore davvero che si sta, come si dice, sbattendo. Milano è davvero in prima linea, i numeri della Lombardia sono molto grossi. Sì, però è lo stesso Sala, sindaco, che ha detto così non va più bene, caro Renzi. Sì, nel senso, no, certo, ci vuole una gestione. Perché lo sforzo che sta facendo è grande, cioè è proprio grande. Però il problema, ci sono tanti comuni che non ne hanno neanche mezzo di migranti e quindi non può, cioè chi ha accettato di averli non può poi farsi carico di altri, ha accettato in un numero ragionevole, sì. E questo e con la ragionevolezza, cioè uno smistamento capillare si può fare. Ci sono dei Cesate, che è un comune che è da più di un anno che li fa lavorare con delle piccole iniziative, delle piccole attività, e c'è stata la popolazione all'inizio, i cittadini erano d'accordo, adesso sono già d'accordo. Scusa, e sono degli esempi che c'è, virtuosi. Che c'è Bianconi? No, ma non si può fare non si può andare avanti col fai da te. Cioè, qui c'è un problema di fondo che è sbagliato. Si dice, oh, Milano ha fatto i suoi sforzi di solidarietà, oh, c'è quel sindaco che li fa lavorare, invece quell'altro pezzo di merda di quell'altro sindaco non li vuole. Non sta così il problema. Il problema deve essere di una gestione regolare. Ci devono essere delle regole fisse, cioè tutti devono stare a certe regole che devono essere compensative dei ruoli. Sì. Cioè non si può fare così, affidarsi. Deve essere un problema politico, non di solidarietà. Non è che siamo la Don Bosco, lo Stato non è la Don Bosco. Sì, lo Stato deve organizzare i cittadini e chi ha bisogno di lui. Ci vorrebbe una gestione, ma non è chiaro. Li prendi, sono disponibili a fare certi lavori civili? Sì, allora ci possono stare, se no no. Ma se ti vedi nei paesini a Bighellonare 10, 20 che non fanno niente quei soldi nostri e dopo si arrabbiano, lì crei il disagio sociale e crei questo crei poi il fatto, crei il fatto che l'80% poi voglia i muri. Questo è dato, no, ma questa è la provocazione, perché è lo Stato che ha latitato e l'Europa che ha latitato. È così. La classe politica in generale, io ho tutte le responsabilità che volete, ma non si nei può paesini, valutare nei paesini ce l'ha mandati d'accordo con l'ANCI. Sì, ma insomma adesso ci sono molti sindaci che si lamentano anche di questo, dicendo in realtà è un accordo governo-prefettura e ci sono sindaci che a volte lo scoprono quando gli arrivano e poi dopo sì, se li devono gestire ovviamente, non è che li prendono e li buttano via, però è chiaro che una situazione in cui ci sia un sistema organizzato non c'è, ma d'altronde voglio dire, i primi anche sindaci, prima Sala a Milano, poi Gori a Bergamo, cito due sindaci non a caso, insomma sono dello stesso partito politico del premier Renzi, hanno detto così basta, così non si può andare avanti. Sono 20 anni che sentiamo dire che c'è l'emergenza, ormai dovremmo capire che non c'è più un'emergenza, che è una situazione di fatto e andrebbe gestita o no. Comunque sono finiti i soldi, 600 milioni, intanto noi andiamo al traffico. E vai col traffico! Axerta, indaga, documenta, accerta. www.axerta.it vi presenta Matteo Renzi, punta il dito verso la sindaca Raggi, ma che cosa hai fatto? Sai di chi è la colpa? Dei tuoi amici del PD che hanno governato negli anni precedenti, pertanto te la devi prendere con chi c'era prima, non con chi è venuto adesso. Ovviamente, tu leggi tu bischerai sui giornali, leggi che ti pare, l'articolo ti va a incazzare, la carta volta, via, leggi che ti pare, però dopo ci rompere più coglione. Ciao, viva Firenze. Milan, ma da chi sei raccomandato tu? L'immagine del sindaco di Roma che sta al ristorante a mangiarsi la carbonara, mentre Malagò, presidente del CONI, e soprattutto Pancalli, responsabile delle Paralimpiadi, vengono lasciati al Campidoglio ad aspettare per mezz'ora senza che nessuno abbia la decenza di riceverli, è qualcosa che mi ha fatto indignare. E vabbè, Vincenzo De Luca nella sua lira TV, sua, non è proprio sua, però è come se fosse sua, insomma, va lì, dice o vanno lì da lui e lui parla e gli altri muti. Allora, ecco, non so rispondere a questa domanda da chi sono raccomandato. Questa è una cosa che mi mette in crisi, per esempio, alle 6.48 del mattino. Poi io c'è da dire che non ascolto mai la rassegna stampa, non ascolto mai la segreteria telefonica che Lorenzo Nespoli prepara. E quindi poi di fronte a queste domande spiazzanti rimango un po'... così, un po' in difficoltà. Mi raccomanda Maurizio Bianconi, l'onorevole Maurizio Bianconi, uno che oltre ad avere 500 morti sul groppone sa piazzare però con i suoi tentacoli ovunque persone. Sto scherzando. Uomo di potere. Mi hanno anche cassato anche dalla stampa e dalla televisione, ma ci ha fatto caso che me è da un anno che non mi chiamano più alla televisione da quando ho cominciato a parlare. E vabbè, c'è la radio, c'è la radio. Uomo di potere, uomo di Arezzo, l'occhio, i massoni, Licio Gelli. Tutti amici miei, Boschi, Massoni, Gelli, tutti amici miei. Sì, sì. Infatti sono chiari 6:30 con lei perché lei non... è un uomo democratico. Cioè l'ha detto come dire, sono qua ridotto alle 6:30. Vado con l'istante, ho un'ammirazione io per la sua volontà di protestare in maniera civile. Niente, basta. Vabbè, e basta, però, basta. Se no, dopo. Però voglio dire, anche a luna di notte alle 13 mi avrei da lei. Va bene, però ottimo. Voglio dire che ci sia una stampa, una televisione e radio che sono fortemente condizionate come non mai dal potere in questo momento, questo va. Questo c'è. Non diciamolo troppo ad alta voce a luna alle 3, che qua poi prendono sul serio la cosa e mi mettono il programma a luna alle 3. No, va bene, che poi mi metto in onda alle 3, visto che sono molto raccomandato. Ma è il momento, come sapete, noi ogni tanto vogliamo scovare i nostri ascoltatori che ci seguono da tutte le parti del mondo. Good morning, Vietnam! Hey, this is not a test, this is rock and roll! E allora, signori, oggi andiamo proprio lì nella patria del rock and roll, perché c'è Luca che ci segue da New York ogni giorno in maniera precisa, puntuale, vero Luca? Di sì? Rispondi di sì? Ciao Alessandro, sì, confermo, però normalmente vi ascolto non a quest'ora, ma in podcast. Ah, va bene. Però, visto che noi raccontiamo le cose che sono sui giornali italiani, tu Luca devi dirci che cosa invece c'è sui giornali americani. Immagino il primo dibattito che ci sarà questa sera alle 21, ora italiana, ora ora americana, di New York, ora di New York. Esatto, di Long Island per la precisione. Tra Trump e Clinton. E allora, dici in anteprima chi vincerà. A quanto pare lo scarto sta diventando sempre più risicato. Pare che ci sia solo un 2% di scarto in questo momento, stando agli ultimi sondaggi, ma un terzo degli americani deciderà il proprio voto in base proprio a questi dibattiti. Questa mi ha molto impressionato. Poi dicono la TV non conta. Un terzo degli americani deciderà su come andranno i tre dibattiti in TV. Oggi c'è Esatto. Quindi è un esito ancora tutto incerto. Esatto. E in più un'altra notizia che forse ha poco un po' meno risalto sui giornali italiani, ma che qui sta avendo molto risalto, è quella dell'uccisione che c'è stata, la sparatoria da parte della polizia di un altro afroamericano, quello di Charlotte? Esatto, sì, no, beh, ne hanno parlato. Ci sono in corso proteste, diciamo, in tutte le città americane, anche qui a New York, tutti i giorni in corso da parte degli afroamericani. Parlato ovviamente anche i giornali italiani, è un dramma vero. Luca, che fai a New York? Che fai tu a New York? Notizia, diciamo. Io lavoro per una grande banca e quindi, diciamo, in particolare seguo l'angolo italiano qui dal di questa Stati banca, Uniti, seguo questa, diciamo, banca. Le nostre eccellenze. E soprattutto perché ascolti 24 mattino da New York e non hai niente di meglio perché da fare? Per il nostro fuso orario è perfetto, perché quando io mi sveglio la mattina, mentre mi preparo per andare in ufficio, ho tutta la rassegna stampa già letta da te. A gratis. Mi risparmi mezz'ora di lavoro. Va bene. Ma infatti, intanto Luca, io ti mando un grosso abbraccio da New York. Vai a dormire che domani in banca, capito? Bianconi lavora in una di quelle banche. Di quelle bancacce. ma non è vero. Dai, lavora in banca, Luca. Ma poverino, vai lì a farsi un mazzo così. E noi gli diciamo. Ma poverino fa il suo lavoro. Poi. Ma certo, ma dai. Facciamo il bravo. Silvia, ma davvero ci dobbiamo spaventare per Trump, secondo te? Perché io non... dobbiamo stare attenti. Ma perché dovremmo spaventare? Cosa potrebbe fare di così, così grave, dovesse diventare presidente? Cioè dichiara guerra al mondo. Non so che cosa fa, però insomma uno che ne ha nel lato una serie di bugie quotidiane che lei inanella così, insomma, io mi fido sempre molto dello staff, in genere della Casa Bianca e degli altri apparati. Questo è il senso della mia domanda: cosa vuoi che faccia il presidente senza che generali, consiglieri, la NATO? Parla, il presidente parla, crea umore, parla. Certo, lui è un ide sentire con una parte dell'elettorato che ci deve far riflettere. Bianconi è preoccupato. Non possiamo liquidare come un buffone. Quindi l'abbiamo, anzi, è stato l'errore che abbiamo fatto prima. Probabilmente neanche lui si aspettava. Cioè, era una mossa che non pensava che lo portasse sino a dove è arrivato. Però, insomma, la Clinton, quando è stata segretario di Stato, insomma, ha fatto il suo lavoro. Noi sappiamo chi è la Clinton, non sappiamo chi è lui. Non sappiamo chi è Trump. Bianconi, però abbiamo 10 secondi, devo chiudere. Trump ci preoccupa? Che se la democrazia americana propone due presidenti così, tutti dobbiamo stare preoccupati. In quanto alle bugie, ricordo che il tallone d'Achille della Clinton è proprio questo. Quindi a bugie sono pari, insomma, non è che, però si è fatto il presidente come Bush, come si chiama, gli occhi troppo vicini al naso. Quando hanno gli occhi troppo vicini al naso, non è che capiscono tanto, lo potrebbe fare anche Trump. Ecco la chiusura lombrosiana, ci voleva sempre di Bianconi. Grazie, vi mando un abbraccio, alla prossima. JP Morgan Asset Management vi presenta. Anche stamattina andiamo a leggere i giornali di Milano, ma anche quelli di Roma, di Napoli. E me ci mettiamo pure quello della Sicilia, perché queste cose fanno schifo, quello della Sicilia. 24 mattino. E allora, signori, siamo qui, sono le 7:19 minuti. Forza, sveglia, sveglia! La 178esima settimana decisiva per l'abolizione delle province è già ben che cominciata. E allora andiamo avanti, questa è la rassegna stampa di 24 mattino. Oggi c'è Carmelo Lauricella in regia perché il nostro alpino Peter Bescapè si è sposato. Ma questa è l'audio originale, no? Che sono successe delle cose veramente dalle quali mi dissocio completamente, se vedete qualche foto su Facebook. Allora, eravamo lì, caro Carmelo, sono passati 20 anni, Va bene, allora, era solo sabato, Lorenzo Nespoli è qui con noi, siamo pronti allora a leggere i giornali, dai. Anche le mega venerdì, anche le proprie lunedì. No! Allora, vabbè, diciamo che questo sembrava anche con una parlata svizzera, questo nostro ascoltatore, con un accento del Canton Ticino, e tra poco capiremo perché. Il Sole 24 Ore apre su professori, prefetti, ragionieri, la mappa dei mestieri over 50, le classifiche del Sole 24 Ore, solo 3 categorie su 10 al di sotto del valore nazionale di 43,5 anni. Dove ci sono i lavoratori più anziani sono i professori ordinari all'università, e questo è anche un po' comprensibile, seguiti a breve distanza da prefetti, dipendenti ministeriali e ragionieri, tutti saldamente le professioni over 50. Allora, il Corriere della Sera, accuse a Putin, barbarie in Siria, l'apertura dunque sulla situazione in Siria, così la stampa, l'ONU, processo a Putin in Siria colpevole di crimini di guerra. L'apertura invece per Repubblica è un sondaggio che vedremo tra poco. La maggioranza degli italiani vuole più controlli ai confini, paura degli immigrati, gli italiani favorevoli a chiudere le frontiere. Per il Messaggero, pensioni e bonus, così si cambia, questo è il titolo di prima pagina. Mentre Libero accusa la Deutsche Bank, si salva sotto la gonna della Merkel, mentre noi andiamo in malora. Mentre l'apertura del giornale da cui voglio partire, appunto, è la Svizzera. La Svizzera sbatte la porta in faccia ai lavoratori italiani. Mentre subiamo l'invasione dei profughi, il Ticino vuole limitare i frontalieri. C'è da dire che, attenzione, quello che scrivono anche i giornali, lo scrivono in maniera corretta, quello che stiamo per leggere non è che la Svizzera, o meglio il Canton Ticino, abbia votato e quindi adesso i tanti frontalieri che ogni giorno varcano il confine e vanno a lavorare in Svizzera non possono più andare a lavorare. È una decisione che non vincola il governo centrale, che su queste materie, come le materie del lavoro, si deve esprimere, ma il referendum che in Canton Ticino ha portato al freno ai lavoratori italiani è un indirizzo politico, un messaggio, insomma. Il nome della campagna, come racconta La Stampa, pagina 8, non lasciava spazio a dubbi. Prima i nostri, e al referendum per alzare una barriera contro i frontalieri stranieri, in particolare italiani, i ticinesi hanno votato compatti, il 58% del sì. E questa proposta della destra nazionalista, infatti era promosso dall'UDC e dalla Lega in Canton Ticino, ha incassato la benedizione popolare. Vero, l'affluenza si è fermata sotto il 45%, ma il segnale che arriva dal cantone è chiarissimo. Quando ci sarà da assegnare un posto di lavoro, i residenti dovranno avere la precedenza sugli altri. Si chiama preferenza indigena. E la maggioranza ha scelto di ancorarla nella Costituzione del Canton Ticino. Ovviamente le reazioni, il Corriere della Sera intervista l'ex PM antimafia svizzero che ha collaborato con Giovanni Falcone, Paolo Bernasconi, classe 43 di Lugano, intervistato da Claudio Delfrate. Ignorano i dati economici, senza voi italiani, qui chiudiamo. Dietro il risultato di questo referendum c'è un problema di istruzione, esordisce così Bernasconi, nel senso che questa gente ignora le regole basilari dell'economia. È in atto uno scollamento tra ciò che fanno i partiti e quel che accade nel mondo dell'economia. Le imprese ticinesi chiamano ogni giorno dall'Italia 62.000 lavoratori, senza i quali il sistema manifatturiero, la sanità, il commercio chiuderebbero dalla sera alla mattina. E questi cosa fanno? Votano per rimandarli indietro. La realtà è che i frontalieri sono indispensabili alla nostra economia. E poi dice Bernasconi, si tratta di una questione strettamente politica, di un gioco di potere. L'UDC, la Lega dei Ticinesi, stanno tentando di scalzare le élite economiche rappresentate dai partiti storici. Allora devono inventarsi che qualcosa. E che cosa? La paura. La paura da scaricare su un nemico a portata di mano. E a questo scopo sono venuti buoni i lavoratori italiani. Questa è l'analisi di Paolo Bernasconi, appunto, come detto, ha lavorato anche ex procuratore di Lugano, collaboratore di Carla Del Ponte e Giovanni Falcone, e viene intervistato dal Corriere della Sera. Tra l'altro, a proposito di paura, questo tema della paura, gli stranieri, si ritrova oggi nell'apertura di prima pagina di Repubblica, come detto, perché c'è il sondaggio settimanale di Ilvo Diamanti con il commento, sondaggio Demos per Repubblica. L'83% degli italiani chiede più controlli nell'area Schengen, proprio nel giorno in cui il Canton Ticino vota questo referendum. Scrive Ilvo Diamanti nel suo commento: Matteo Renzi ha avviato un conflitto permanente in Europa, in particolare con gli azionisti di riferimento dell'Unione, Germania e Francia, con i quali ha polemizzato per il mancato invito al prossimo vertice di Berlino. Si tratta di un atteggiamento sperimentato dal Premier in diverse occasioni, più che euroscettico, eurotattico. E scrive Diamanti: Matteo Renzi parla a Bruxelles e a Berlino, ma si rivolge al proprio paese, agli elettori che lo sostengono, ma anche a quelli più tiepidi e distaccati. D'altronde, l'atteggiamento degli italiani verso l'Unione si è sensibilmente raffreddato dopo l'ingresso nell'euro nei primi anni 2000. Allora eravamo i più euroforici, diciamo così, in Europa. Quasi il 60% esprimeva fiducia per le istituzioni comunitarie, ma il clima di opinione è cambiato in fretta, è sceso fino al 30% negli ultimi anni. Oggi solo il 27% appoggia l'Europa. I più delusi sono gli elettori incerti. Ecco, allora, questo sondaggio, gli italiani rivogliono le frontiere, abbastanza impressionante. Favorevole il 72% di chi vota Lega, il 65% di chi vota Forza Italia, d'accordo però anche il 49% dell'elettorato del Movimento 5 Stelle, dunque ci si divide, più freddi nel centro-sinistra, ma anche nel centro-sinistra, dice Ilvo Diamanti, il 38% degli intervistati dice sì alle frontiere. Questo è il tema lanciato da Repubblica in prima pagina. A proposito di migranti, attenzione, Il Corriere e il Messaggero hanno questa notizia. Corriere della Sera, guarda qua, Fiorenza Sarzanini, siamo a pagina 8. Finiti i soldi per l'accoglienza migranti, servono 600 milioni di euro. Le ONG dicono al Ministero dell'Interno: centri al collasso, migliaia di stranieri rischiano lo sfratto, sono finiti i soldi, ne servono 600 milioni da trovare al più presto. Ecco, visto che affrontiamo tutto con l'emergenza e invece dovremmo avere qualcosa di strutturale e di specifico, e invece da 20 anni si sente parlare di emergenze da affrontare. Allora vi segnalo, visto che molti di voi sono alla guida in questo momento, ci sono due pagine di Repubblica, pagina 16 e 17, che analizzano gli incidenti in macchina. E attenzione, perché secondo questa inchiesta di Cristina Nadotti, tra l'altro l'anno scorso per la prima volta dopo 15 anni di calo le vittime della strada sono tornate a crescere. Nei primi 8 mesi del 2016 le contravvenzioni per chi guida sono soprattutto legate all'uso del cellulare, il 26% in più di contravvenzioni per chi usa il cellulare. 3 incidenti su 4 sembrano ormai causati dalla distrazione da cellulare, e ci sono tutti i casi. Volete mandare semplicemente l'SMS OK per rispondere? Impiegate mediamente 10 secondi e per una distanza, in base alla velocità ovviamente in cui andate, tra i 110 metri e i 278 metri è come guidare quasi bendati. Oddio, vabbè, c'è la coda dell'occhio, come si suol dire, ma perdete il focus sulla strada. Volete mandare il messaggio, che ne so, controllare Facebook? Impiegate mediamente 14 secondi, rischiate fino a 389 metri di buco sulla strada, cioè di distrazione sulla strada. Oppure per fare un selfie, c'è gente che si fa i selfie mentre guida. Vacca miseria, mi devo contenere. Fino a 417 metri potete perdere l'occhio sulla strada, e così andate avanti per due pagine su Repubblica, pagina 16 e 17. Leggetela ovviamente quando siete arrivati e avete fermato la macchina. Allora, ma siamo alla carta costa, siamo all'articolo appunto da Mani sul volante. Non è questo legato alla guida. L'articolo che mi fa pinzare della giornata è questo. Ricordate la vicenda di Vicenza, di un ospedale dove per gioco, dicevano loro, gioco, solo un gioco, via WhatsApp alcuni infermieri si scambiavano messaggi su che cosa? Su una sfida tra di loro, che è rimasta sempre, per carità, solo un gioco, solo su WhatsApp. Infilare le cannule più spesse di diametro nelle vene dei pazienti, così, tanto per procurare del dolore ai pazienti, e poi chi infila la cannula più grande vince. Questo era il gioco via WhatsApp, e c'è un primario che ha denunciato tutto questo. Risultato: Gianantonio Stella, il gioco degli aghi, punito chi denunciò. È stato sospeso il primario che svelò gli scherzi di medici e infermieri a danno dei malati. Può sembrare incredibile, ma una pagina intera, pagina 27, Gianantonio Stella: affidereste la vostra vita a un medico vicentino che da decenni si dedica come volontario in Africa, o a un sindacato di infermieri buontemponi che si sfidano in chat su chi infila aghi e cannule più grosse nelle vene dei ricoverati? Era solo un gioco, dicono gli sventurati. E così alla fine l'unico a pagare è il primario che denunciò lo scherzo. Sospeso. Si chiama Vincenzo Riboni. Da venerdì è a casa. È reo di aver firmato un rapporto che prendeva troppo sul serio quello scherzo. Fermo, senza stipendio, disoccupato, in castigo fino al 2 ottobre. Poi i vertici dell'ASL di Vicenza vorrebbero tanto accettasse il premuroso consiglio di smaltire le ferie accumulate e poi serenamente se ne vada in pensione. Il guaio è che lui non ci sta a fare il becco, bastonato e contento. E con l'appoggio di mezza città si è rivolta alla magistratura per riproporre la domanda centrale. È normale che medici e infermieri alle prese con un lavoro come quello del pronto soccorso, molto pesante per il carico di lavoro psicologico quotidiano, smaltiscano le tensioni dando vita a una chat con una gara sugli strumenti usati in corsia? Ecco, ovviamente domande retoriche che fanno veramente imbestialire. Per questo articolo di Gian Antonio Stella, la gara tra infermieri a chi usa aghi grossi, è stato punito il medico che l'ha denunciata. Agghiacciante quello che dicono, è una vergogna. State ascoltando un programma offerto da Centrosoftware.com, il miglior ERP per il successo della tua impresa. Alessandro Milan, il Gabigol dell'informazione. Beh, Gabigol io l'ho preso al fantacalcio, lasciate fare, non lo sapevi caro ascoltatore, ma io l'ho preso al fantacalcio, magari esploderà, speriamo non nel derby, e io intanto ce l'ho lì. Allora, cari ascoltatori, siamo qui a leggere ancora quello che ci propongono i giornali. Beh, c'è tanto spazio alla kermesse del Movimento 5 Stelle a Palermo, a parte, come dire, vabbè. C'è Assange che dice che parte delle guerre sono anche responsabilità dei giornalisti, anzi che ogni giornalista ha fatto una precisa contabilità, ogni giornalista ha almeno una responsabilità di 10 morti. Questo Julian Assange, collegato dall'ambasciata dell'Ecuador a Londra. Ogni giornalista ha sul groppone 10 morti. Già uno si sveglia, è lunedì. Già si sveglia dopo che ieri ci hanno forse portato via 2 punti con la Fiorentina, e mi devo sentire anche che c'ho 10 morti sul groppone. Voi capite che l'inizio della settimana è un po' così zoppicante. In ogni caso, dopo, quando ci sarà Oscar, siamo in 2, quindi 20 morti, e così abbiamo appena così a lunedì mattina, e ogni giorno è così, evidentemente. Va bene, comunque, a parte questi aspetti della Kermesse 5 Stelle, ci sono vari articoli. Per esempio, in retroscena, la più attesa era il sindaco di Roma, ovviamente, Virginia Raggi. Interessanti retroscena. Emanuele Buzzi del Corriere della Sera, sperando che adesso non venga accolto la prossima kermesse al grido di buffone, spintonato, eccetera, ma no, non credo. Il sostegno freddo di Beppe, le responsabilità sono tue, ha detto a Virginia Raggi. C'è poi il pugno duro sui critici, Beppe Grillo, che ha detto io sono il capo. Ha visto Virginia Raggi, che gli ha detto fatemi lavorare, ho fatto tutto quello che avevo promesso in questi mesi. Si presenta così da Beppe Grillo e Davide Casaleggio, insieme c'è anche Rocco Casalino, responsabile comunicazione del 5 Stelle. Hai la mia fiducia, questa è la posizione di Beppe Grillo. Andiamo nella stessa direzione, sei fondamentale per il movimento, ma le responsabilità delle azioni sono tue. Insomma, scrive il Corriere, un sostegno convinto ma freddo. Beppe si comporta come un padre che cerca di essere giusto ed equo, ascolta e sostiene. La linea sembra vai avanti così, ma è chiaro che un po' di tensione rimane, soprattutto rimane tra pare alcune storiche come Roberta Lombardi e la stessa Virginia Raggi. Roberta Lombardi fa un'intervista al Fatto Quotidiano nella quale, e anche a Repubblica, eccola qua intervistata da Repubblica da Annalisa Cuzzocrea, noi e Virginia su strade diverse, i capi non sono Di Maio e Di Battista, sono in grado di comunicare bene, ma il fatto che siano stati mandati in TV non vuol dire nulla, sono bravi, ma ci sono anche altre persone che fanno bene altre cose. E poi Roberta Lombardi, una domanda precisa su Virginia Raggi, dice diciamo che le nostre strade sono su binari, sono binari paralleli, speriamo che si incontrino. A Roma c'è il movimento e c'è il sindaco, speriamo che queste due strade parallele si incontrino. A dimostrazione che c'è un po' di freddezza, diciamo così. Vabbè, tralascio la pagina urla, schiaffi, spintoni, insulti ai giornalisti, la pagina del giorno, andiamo oltre, sennò poi dicono se lo dici che non è una notizia e sei una difesa corporativa di casta. Guarda, stendiamo un velo penoso e andiamo avanti. Allora, a proposito di politica, c'è ovviamente la legge di bilancio in discussione. 7 miliardi di tagli da sanità e servizi, questo è il titolo di Repubblica, ovviamente sono tutte indiscrezioni, Roberto Petrini racconta, il governo cerca le risorse per la prossima manovra, ieri Repubblica titolava il fatto della decisione di Renzi di fissare un rapporto deficit-PIL del prossimo anno al 2,3%, se riuscirà a ottenere un via libera da Bruxelles si punta anche al 2,4%, e questo comporta, secondo Petrini, ugualmente un prepararsi a stringere la cinta per circa 7 miliardi. Sanità, beni, servizi, partecipate, questi sono i settori a cui si guarda. Però in realtà Alessandro Barbera sulla Stampa racconta che il DEF, il documento di economia e finanza che doveva essere messo a punto oggi, slitta di 24 ore. Perché, secondo la Stampa, c'è tensione tra Renzi e Padoan e quindi slitta questo aggiornamento di conti. Nonostante la domenica di lavoro e di telefonate, tra Roma e Bruxelles non c'è ancora accordo politico sui numeri della prossima legge di bilancio. Ricordiamo, come racconta la Stampa, che è il 2,1% il deficit da cui parte il governo nel documento di economia e finanza. Secondo Repubblica, però, si vuole rimettere al 2,3, forse 2,4. Questo ha creato un po' di tensione secondo la Stampa e quindi tutto salta di un giorno. In tutto questo mi ha molto colpito una vicenda che riguarda Palazzo Chigi, riguarda il governo, su cui opportunamente oggi Sergio Rizzo scrive a pagina 13, riguarda Antonella Manzione. Antonella Manzione è il capo, già capo dei Vigili Urbani di Firenze quando era sindaco Renzi, poi voluta proprio a Palazzo Chigi, responsabile del Dipartimento Affari Giuridici, insomma l'ufficio che scrive le leggi per intenderci. Però si era parlato ultimamente di qualche screzio, insomma, tra Renzi e la Manzione, la necessità di spostarla da lì, ecco, per dirla in maniera brutale. E allora si è pensato bene di metterla al Consiglio di Stato. Questo secondo l'articolo di Sergio Rizzo sul Corriere della Sera, pagina 13, infatti la sua è una delle nomine proposte da Palazzo Chigi per il Consiglio di Stato. Solo che Antonella Manzione non ha l'età per essere nominata al Consiglio di Stato. Manzione, consigliere di Stato, la nomina aggira il limite di età, scelta la fedelissima di Renzi, che però appunto dovrebbe avere come limite 55 anni e in realtà lei ne ha 53. Dettaglio che rafforza la tesi secondo cui un avvicinamento al vertice del Dipartimento Giuridico di Palazzo Chigi è scontato, però eccola qui, la scelta tra gli altri, la fedelissima di Renzi, c'è anche il segretario di Palazzo Chigi, ma non ha l'età giusta. Che dobbiamo fare? Una deroga? L'Italia è il paese delle deroghe, deroghe, deroghine, deroghette, non lo so. Intanto voglio salutare Mauro Meazza, ieri un punticino a testa, certo il nostro con la mano dell'arbitro nel finale che ha messo lo zampino, ma pazienza, pazienza caro Mauro, buongiorno. Buongiorno, buongiorno, beh adesso addirittura la mano dell'arbitro, insomma sarà un gomblotto. Sì, è stato un gomblottino. Un gomblottino, va bene, accettiamo questa tesi, me la segno che c'è stato questo gomblottino fiorentino. Al 95esimo, un quasi rigore, dai. Senti, lasciamo queste piccinerie perché ho gli endecasillabi del lunedì che incombono, quindi giusto, con il tuo permesso vado subito a declamarli. Partecipate di poltrone o stello, sareste dei comuni società, ma nei lor conti spesso gran bordello avete fatto da molti anni in qua. Verrà ora ottobre insieme a lui il rigore e tagli di compensi e di prebende, come ti annuncia il Sol 24 ore in pagina che chi più sa più intende. E poi vedrai l'Italia incanutita nell'età media di 100 mestieri. In molti gioventù sembra sparita, son numeri che portano pensieri. Così come ben da meditazione, lo articolo dell'Antonello Cherchi che in ogni capoluogo di regione contò le unioni gay che tanti alterchi han provocato in Parlamento e fuori. Veggiamo oggi quante ne han celebrato i sindaci, i commessi o gli assessori. Il tempo mio che è quasi terminato ancora non mi vieta lo sbeffeggio dello cugino che rideva caustico e poi ieri sera meritò il dileggio. E allora, consoliamoci col traffico! Axerta. Indaga. Documenta. Accerta. www.axerta.it. Vi presenta... Alessandro Milan, il Donald Trump dell'informazione italiana. E allora, tra poco parlerò di Donald Trump, allora, non so se è un complimento per il nostro ascoltatore oppure no, no, rimane questo mistero. Mandateci le vostre sigle al 349-238-6666 via WhatsApp, tra l'altro... mandate anche le vostre mail se ci ascoltate dall'estero. So che siete in tanti, avete capito che abbiamo iniziato a chiamarvi alle 6:50 circa per raccontarci quali sono le notizie di cui si parla nei vostri paesi. Mandateci una mail 24mattino@radio24.it e noi vi chiameremo in onda. A proposito di notizie dall'estero, oggi devo dire, faccio un plauso al Giorno, che è l'unico quotidiano che mette in prima pagina questa vicenda che proviene dalla Giordania, una vicenda terribile. Non si sa perché, quando vengono uccisi in Francia per Charlie Hebdo, giustamente facciamo comitati, proteste, paginate sui giornali. Sì, forse questo era solo una persona, e poi era in Giordania, la Giordania è lontana, chi è che va a leggere quello che succede in Giordania? Il Giorno invece mette in prima pagina, e come titolo di prima pagina, quello che è successo allo scrittore giordano Nahid Attar, 56 anni, ucciso a colpi di pistola dopo che era stato imprigionato dal re. E questo ancora mi ha fatto un po' di stretta al cuore, io che penso che Rania di Giordania, la regina Rania di Giordania, sia la donna più bella del mondo, oltre che donna influente, eppure è successo in Giordania. Questo scrittore ha avuto una grandissima colpa agli occhi di chi l'ha ucciso. Aveva postato su Facebook 2 mesi fa una vignetta considerata blasfema per l'Islam. Una vignetta che tra l'altro oggi il Giorno ripropone, come la ripropone il Corriere della Sera. Nella vignetta c'è un capo dell'ISIS che è in paradiso, è in tenda a letto tra 2 donne e compare Allah che lo saluta. Buonasera, ti serve qualcosa? La replica di questo dell'ISIS. Sì, Dio, un bicchiere di vino e un po' di arachidi e un ragazzo a pulire il pavimento e prenditi i piatti sporchi. E poi insomma, la vignetta continua. Allora, raffigurare Allah è peccato per l'Islam. Dopo che lui ha postato su Facebook questa vignetta, non l'ha fatta lui la vignetta, l'ha solo postata su Facebook, è stato arrestato in Giordania, è stato 2 settimane in carcere e poi era processato, si stava recando al processo ed è stato ucciso da un imam. Giordania ha ucciso lo scrittore laico accusato per la vignetta blasfema. Come detto, il Giorno lo mette in prima pagina, tutti dedicano almeno una pagina a questo tema. Era stato minacciato dagli estremisti, il premier l'aveva fatto arrestare. E vabbè, ricordate il nome, Nahid Attar. Ecco qui Repubblica, ucciso in Giordania, lo scrittore Attar pubblicò su Facebook una vignetta blasfema, ovviamente blasfema è tra virgolette, considerata come tale. È stato arrestato un imam che, considerato degli esponenti degli ambienti radicali, arrestato per questa vicenda. In tutto questo, in America invece si discute, ecco perché dicevo Donald Trump, si discute e si attende, ovviamente si attende questa sera 21 ora della costa est americana il primo dei 3 dibattiti in TV tra i candidati Hillary Clinton e Donald Trump. Dibattito TV per 100 milioni di americani, questo si stima è quante persone seguiranno questo faccia a faccia. 1 su 3 deciderà come votare, questo mi ha molto impressionato. Giuseppe Sarcina racconta a pagina 2 del Corriere della Sera, secondo un sondaggio condotto dal Wall Street Journal e dalla NBC, 1/3 degli elettori americani aspetta il primo dibattito presidenziale per decidere chi votare. E il giorno è arrivato, stasera alle 21, saranno le 3 di notte di domani in Italia. In diretta sulla CNN, Hillary Clinton e Donald Trump si confronteranno nel palazzetto sportivo della Hofstra University a Long Island a New York. È il primo dei tre appuntamenti, più quello tra i potenziali vicepresidenti che scandiranno il percorso di avvicinamento al voto dell'8 novembre. Stando alla media delle rilevazioni calcolata dal sito Real Clear Politics, Hillary Clinton al momento si presenta con un vantaggio di 2,5% a livello nazionale, al 46,2% contro il 43,7%. Sono però entrambi i contendenti più impopolari nella storia recente delle presidenziali. Pensate che Hillary Clinton non piace al 56% degli intervistati in questo sondaggio, mentre Donald, cioè Donald Trump, non piace al 66% degli americani, secondo quanto rilevato dal Washington Post e da ABC in un recente sondaggio. Questo è lo scenario, vedremo ovviamente questa sera, questa notte in Italia, come andrà questo primo faccia a faccia. Vi segnalo, tornando in Italia invece, questa vicenda che riguarda medicina, scienza, cure alternative, scontro su un meeting che si terrà giovedì. Michele Bocci racconta su Repubblica: l'Istituto di Sanità contro un convegno al Senato per includere Ayurveda e antroposofia nel servizio pubblico. Nelle istituzioni non si promuovano pratiche antiscientifiche. È un convegno al Senato per il quale l'Istituto di Sanità è intervenuto dicendo: non è possibile che si promuovano pratiche antiscientifiche in un luogo istituzionale come il Senato. Non bisogna confondere la libertà di cura con i criteri con cui deve essere garantito un equo accesso alle cure per tutti i cittadini e che deve riguardare terapie e metodi di provata efficacia. Il convegno è stato organizzato da Maurizio Romani, omeopata toscano espulso dal 5 Stelle, e l'Associazione per la Medicina Centrata sulla Persona, e sarà in Senato giovedì, e l'Istituto di Sanità si ribella dicendo: è sbagliato. Lo faccio vedere anche sulla mia pagina, sul mio profilo pubblico Facebook. Eccolo qua. Lo potete vedere tutti? In radio si vede molto bene. Vedi Ceccarelli, lo vedi? Lo vedi? Ecco. L'abbiamo mostrato in diretta radiofonica, una cosa incredibile che solo a Radio 24 può succedere. Ma siamo alla Carta Costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali è incredibile. C'è il grande dibattito lanciato da Daniela Ranieri in prima pagina del Fatto sugli uomini che pagano o non pagano la cena. Ovviamente alle donne. Viva gli uomini che pagano la cena! Questo è il titolo dell'articolo. Perché sono brutte le scene al momento del conto. E come paghiamo? Paghi tu, pago io. Ma io sono donna. Ma come? La donna, il femminismo, tutte le battaglie a dire la parità. Però la galanteria, l'uomo. Paghiamo alla romana. Non paghiamo, non paga nessuno e scappiamo. No, questo non è previsto. Ma insomma, viva gli uomini che pagano la cena! Ma chi se ne frega!